loro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Mi viene il fiatone, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quando tento pochi istanti prima che inizi la trasmissione di fare un po' un riassunto dentro la mia testa delle infinite cose che ci sono da raccontare ogni settimana. Quindi se mi sentite a volte un po' così ansimante, non è per motivi, diciamo così, scabrosi, proprio perché faccio fatica già col pensiero, insomma, mi affatica questo pensiero di mettere insieme tutte le cose. Naturalmente poi, come sempre, lo sapete, il sabato riusciamo a parlare di alcuni argomenti dei tantissimi della settimana. Anche voi naturalmente indirizzate un po' la trasmissione con le vostre scelte della notizia della settimana secondo voi, quindi vi dico da subito il numero verde 800 24 00 24 per esprimere le vostre libere opinioni sui fatti della settimana, sulle notizie che sono sempre infinite, no? Continuamente, come una specie l'Italia, una specie di cilindro magico da cui escono conigli un po' malandati, diciamo, più che dei conigli bianchi. Numero verde, vi dicevo, 800 24 0024, numero verde ecologico, come sempre vi dico, per non disperdere inutilmente, insomma, in modo inquinante le vostre idee, le vostre energie, il vostro tempo nell'ambiente, ma convogliarlo qui, non ci sono più le mezze stagioni. E quali sono fra le notizie? Intanto stavo guardando i siti e ecco, i due match, anche se per motivi completamente diversi. Allora, per la regione Lombardia, voi sapete, Formigoni con Maroni, la regione Lombardia, perché ormai è, qualcuno ha definito, una maionese impazzita con tutto quello che sta succedendo. Mi pare che siano saliti a 15 gli indagati, con l'ultimo assessore Raimondi, anche lui finito in un'inchiesta, accusato di aver fatto pressioni su un funzionario per dare il via libera a una discarica. Quindi da una parte questo match, tra l'altro è notizia di poco fa che Maroni dice: non è vero che il governo la pensa come Formigoni su il voto per la regione Lombardia che va fatto entro dicembre, dice Maroni, lo smentisce, perché la Lega invece sarebbe per farlo verso aprile. E poi dall'altra parte le primarie che diventano sempre più, non dico sanguinarie, ma insomma le primarie del PD. Adesso sapete che c'è questo ulteriore duello tra Bersani e Renzi su questioni di finanza, perché Renzi ha fatto questa settimana una serata di gala e di raccolta fondi, soprattutto a Milano, molto elegante, con banchieri, finanzieri, eccetera. Questa cosa non è piaciuta molto a Bersani e a vari del PD, perché sembra un po' in controtendenza, diciamo così, non so se è un pregiudizio, insomma, con un pensiero di sinistra o di centrosinistra. Dice: come proprio i finanzieri che hanno rovinato l'Italia. Ma soprattutto su questo Davide Serra, che avrebbe organizzato questa serata, che è un finanziere che ha una società che fa capo a una holding che avrebbe base nelle isole Cayman, che è uno dei vari paradisi fiscali. E già Davide Serra ha detto: lei mi offende, ci penseranno i miei legali. Quindi in mezzo c'è pure una querela, insomma una cosa molto complicata che non si riesce a dissipare. Veramente queste primarie hanno scatenato un guazzabuglio. Insomma, cosa ne pensate di queste vicende? 800 24 0024. Poi le notizie sono sempre moltissime altre, io ve ne faccio un sunto esiguo dai vertici infiniti che si fanno a Bruxelles, dai quali sembra che delle cose proprio risolutive, beh anche difficile, non escano mai. E la Grecia che continua a essere in gravissime difficoltà, scontri ad Atene anche questa settimana, poi Monti che dice: abbiamo preso per l'Italia misure brutali ma abbiamo evitato la catastrofe, Banca Italia che dice che i salari sono sempre più in calo, la Caritas che dice che ci sono molti nuovi poveri in Italia tra casalinghe e pensionati, la legge anticorruzione che ha varato il governo, ma molti sono piuttosto insoddisfatti, dicono qui manca qualcosa, anche il Consiglio Superiore della Magistratura. E poi continua il duello fino all'ultimo sangue tra Obama e Romney, sapete che poi il 6 novembre si vota e quindi siamo vicinissimi. Abbiamo già detto del match Formigoni-Maroni, poi D'Alema, Veltroni, insomma tutto questo legato al PD, e poi il processo Rubi, c'è stata una nuova udienza dove Berlusconi avrebbe riconfermato che effettivamente Rubi era la nipote del presidente egiziano, dell'ex presidente Mubarak. Fiat, la Corte d'Appello ha respinto il ricorso di Fiat, sapete, sui 145 lavoratori della Fioma a Pomigliano, ecco, dice no, li deve riassumere. Allora la Fiat dice: mi rivolgerò alla Cassazione. Poi ci tengo anche a raccontarvi che in Italia ci sono 40.000 bambine infibulate, c'è stata un'interrogazione alla Camera questa pratica orrenda, spregevole, che avviene in molti paesi all'estero, in particolare in Africa, che però poi migrando in Italia lo fanno anche in Italia, nonostante ci sia una legge dal 2006 che lo vieti, ma non è servita a niente. Continuano a tagliare, cucire i genitali delle bambine con le conseguenze che potete immaginare. Bene, e allora io però come sempre vi racconto anche a questo punto che cos'è che anche questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere sono un granché. Diciamo che ha un sapore un po' nostalgico, questo non ci sono più le mezze stagioni di questa volta, e è qualcuno che se ne va in pensione a 62 anni. Voi dite come 62 anni? Loro ci sono andati, gli esodati, no, com'è possibile? Ebbene, se ne va in pensione il pulmino degli hippie, il cosiddetto combi. Ve lo ricordate? Io ho fatto tempo a fare qualche giro da piccolina, che c'era mio padre che mi trasportava ogni tanto, e il combi, quello della Volkswagen, questa specie di van, no, degli hippie, che ha accompagnato i sogni e i viaggi di una generazione tra gli anni 60 e 70. Bene, ha deciso la Volkswagen, basta, si fa più, basta, va in pensione, chiuso per sempre, se ne va. E quindi un altro pezzo della nostra storia, del nostro passato, diciamo collettivo, anche mondiale, che scompare. Non ci sono più le mezze stagioni, ma ci sono invece le mezze stagioni. Questo ci dice sempre un po' gattopardianamente che tutto cambia ma nulla cambia. Anche questa settimana abbiamo le nostre certezze: uccisa anche questa settimana una donna, una ragazza di 17 anni, per difendere la sorella dall'ex fidanzato che è andato lì, le ha coltellate e ha ferito la sorella ex fidanzata e ha ucciso l'altra 17enne che si era messa di mezzo per difendere la sorella. Quindi diciamo le nostre certezze, la nostra linearità ogni settimana ce l'abbiamo, la strage di donne non manca mai, e ci si chiede questi uomini di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione sociale, possono continuare a fare questo? E le donne in Italia, le ragazze, possono continuare a morire tutte le settimane in questo modo? E su questo punto interrogativo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi vado a presentare l'opinionista estemporaneo di oggi. Marcello, come here! Ti è piaciuta? Bella, eh? Bella. Marcello Veneziani. Io ogni volta che chiamo Marcello Veneziani mi viene in mente Anita Ekberg, no? Nella fontana, certo. Di Tre. Anche a me, anche a me. Marcello, ti stanno cercando, Marcello? Forse Anita? Però un passettino? No. Magari. Non è lei, magari. Sai che poverina, adesso ha tanti anni, Anita, sono passati tanti anni da quel film, ed è in situazione di grande indigenza, già aveva lanciato l'appello, mi pare, l'anno scorso. Però mi piace ricordarla così, ogni volta che chiamo Marcello Veneziani mi piacerebbe presentarlo così. Marcello, come here! Tu ogni tanto ci bazzichi, ti lavi i piedi nella fontana di Trevi, passi da quelle parti? Sei sì, a Roma, sì, tu, Marcello. Ogni volta che passo ho la tentazione di buttarmi lì, però non trovo mai la persona giusta che mi chiama in quel momento. Accidenti, vabbè. Prima o poi capiterà, magari un vigile urbano, chi lo sa, dice: Marcello, che fai? Marcello, giornalista, scrittore, molto conosciuto, editorialista del Giornale, ha pubblicato un libro con Mondadori da poco che si intitola Dio, Patria e Famiglia dopo il declino, un declino che sa molto di quello che sta succedendo e continua a succedere in Italia. Poi ne parliamo. Però Marcello, io invece non so se sottoporti come prima cosa questa come l'ha chiamata? Invidia penis. Che ne pensi dell'invidia penis tu, Marcello? Beh, credo che esista, che sia un problema vero. Ora non so a che cosa in particolare ti riferisci. Guarda, mi riferisco non a Freud, che è morto da qualche tempo, e anche questa cosa secondo me è morta da un po' di tempo, però io pensavo che con la Lega questa cosa si fosse un po' accantonata, no? Invece Beppe Grillo, tutti ce l'hanno con Renzi da un po' di tempo, allora Beppe Grillo ha detto a Renzi: soffre di invidia penis verso il Movimento 5 Stelle. Non è che ce l'hanno duro pure loro, anche quelli di Grillo, i grillini? Beh, io credo che lui sia rimasto un po' eccitato da questa traversata, e quindi a nuoto, che ha dimostrato anche perché l'acqua la era fredda, diciamo così. E allora, caricato da questa sorta di celodurismo in versione ha pensato di poter esercitare questo ruolo anche nei confronti di Renzi. In effetti sono le due, come dire, novità in campo, quindi inevitabile che ci sia un conflitto tra i due. Però insomma direi di lasciare da parte queste cose, perché sennò scadiamo sempre nelle solite. È molto maschile e maschilista questo, no? Certo, no, no, ma sicuramente, ma poi c'è probabilmente lì anche, come dire, l'iperbole del comico satirico che deve sempre puntare su argomenti che sa che strappano la grassa risata, la complicità, e quindi non sono argomenti politicamente, è vero. Però i peni se li lascerei da parte. Ecco, poi ha anche detto, sempre Grillo di Renzi, è un ebetino inconsapevole, il compagno di banco che ti copia il compito ma non sa spiegarlo alla maestra, un succhiaruote della politica, un sindaco a zonzo, un aspirante dalle mie, un vuoto con il buco intorno, però è giovane e tanto modino, se si comporta bene valuterò la sua iscrizione al Movimento 5 Stelle come attivista, quasi quasi se lo integrerebbe però sotto sotto, Sì, ma devo dire che è troppo ingeneroso, cioè è facile esprimersi in questi termini, però voglio dire, se vediamo il paesaggio circostante, se vediamo quello che passa il convento dalla politica, alla fine accontentiamoci anche di queste mezze promesse, insomma, cioè non si può essere così drastici a priori. Cioè Renzi non ha dimostrato niente attualmente di particolarmente eccellente, però non ha dimostrato neanche il contrario, quindi voglio dire, diamogli il beneficio delle buone intenzioni, vediamo che cosa fa. Quindi questo è il tuo pensiero, il tuo giudizio su Renzi, insomma, niente di eccezionale, però stiamo a vedere. E comunque diceva Pasquino, politologo del PD in questi giorni, che Renzi ha il merito di aver scosso l'albero delle pere e diverse sono cadute, per esempio due pere come dal tuo punto di vista, come dal suo punto di vista, come Veltroni e D'Alema. Che ne pensi di questi passi indietro? Poi ha bisticciato D'Alema con Bersani dicendo vediamo se qualcuno mi chiede di candidarmi, poi Bersani ha detto io non chiedo di candidare nessuno, stavano bisticciando, poi in realtà diversi d'alemiani sostengono ufficialmente adesso Bersani. Cosa ne pensi di tutto questo guazzabuglio? Guarda, io non sono entusiasta di questa così improvvisa cacciata con crucifige di Veltroni e D'Alema, perché tutto sommato si può avere un giudizio diverso, si deve giustamente lavorare per una nuova stagione, nuovi soggetti politici, però da qui a chiedere la cacciata di due personaggi che hanno rappresentato nella storia della sinistra italiana qualcosa di significativo, e non mi pare negativo dal loro punto di vista, insomma, credo che sia un atto un po' ingeneroso, cioè non dobbiamo lasciarci prendere da questo furore della distruzione, cioè buttare tutto a mare, bisogna saper distinguere, rinnovare non vuol dire inevitabilmente cacciare, distruggere, rottamare, io sarei di questa idea, cioè di uscire da questa politica di questi giorni che contrappone i rottamatori di sinistra agli azzeratori di destra, cioè credo che si debba discutere caso per caso, qualità per qualità, e non per blocchi generazionali. Sono d'accordo anche io con te. Di anzianità e così certo. Via. Questione di capacità, non di età anagrafica. Ecco. Poi in realtà Renzi in questi giorni ha detto, forse si è accorto, insomma, che il termine, anche se ha avuto molto successo, ormai è entrato, adesso nelle prossime edizioni dei vocabolari aggiornati ci sarà naturalmente rottamazione, rottamatore, è stato un neologismo che ha avuto un certo successo, però lui stesso in questi giorni ha detto via un termine un po' volgare, parliamo di rinnovamento, no? Di rinnovamento. Contento però della rottamazione di D'Alema e Veltroni, li ha anche ringraziati in questi giorni, tu che pensi? Potrebbe essere il termine rinnovamento una buona sostituzione di questa rottamazione? Sì, beh, sicuramente il rottamatore aveva in quel momento una maggiore efficacia, insomma, anche perché chiaramente la parola forte in un clima come questo oggi è sicuramente più efficace. E d'altronde, Marcello, non si rottamano più le macchine, essendo il mercato così sceso, così in crisi, neanche si rottamano, lui ha pensato rottamiamo le persone. Cioè, dobbiamo tenere buoni tutti. Cioè, ecco, ma in effetti sì, insomma, era un'espressione troppo dura. E poi è un'espressione, come dire, che non considera anche la biografia, il percorso, cioè ridurli ad arnesi, a macchine, a strumenti, non è bello. A motori sgonfi, non è Io bello. Io invece mi pongo un altro problema, sì. Ed è questo, cioè i politici oggi, poverini, devono superare le eliminatorie degli inquisiti, poi quelle dei rottamati, poi quelle degli azzerati. Cosa resta? Cioè, senti, però nonostante gli inquisiti, scusami Marcello, ce ne sono un centinaio in Parlamento giudicati. No, ma io mi pongo anche un altro problema, cioè quello che resta da questa triplice scrematura, siamo sicuri che sono i migliori o sono semplicemente quelli che non hanno fatto mai nulla in vita loro? E quindi non gli si può attribuire né un merito né una colpa. Perché dice che bisogna sporcarsi le mani comunque. Sì, cioè voglio dire, anche il criterio così puramente negativo non funziona. Cioè dobbiamo promuovere la meritocrazia, non tanto punire quelli che non sono stati capaci. Quelli li punirei, però sì, se hanno rubato. Li punirei, ma contestualmente promuovendo uno, cioè per ogni persona che buttiamo via indichiamo chi è l'alternativa, ecco, perché altrimenti distruggiamo soltanto. Questa mi pare un'ottima proposta. Tu per esempio hai detto bisognerebbe premiare per tutti quelli che si escludono perché indagati, perché incapaci eccetera, tra i politici qualcuno altro va premiato. Se non vogliamo fare i nomi di quelli che tu escluderesti, almeno qualcuno che invece ti piace molto da una parte e dall'altra, così, trasversalmente. Guarda, è un momento in cui davvero non riuscirei a dirlo, ma non, questo è grave, perché non perché non ce ne siano, cioè non voglio essere così drastico, ma perché, come dire, quando tu vedi una catastrofe, vedi un nubifragio, eccetera, non riesci a distinguere le sagome. Allora hai quasi paura di spingerti a dire questo però è bravo, perché il giorno dopo gli arriva un avviso di garanzia o magari viene fuori una storia che ti fa saltare. Per esempio, io è desolante convinto, questo, perché significa davvero che siamo sempre, camminiamo sulle sabbie mobili. Perciò io dico, noi dobbiamo adottare un criterio faticoso, che è quello di cercare, ma direi quasi cercare nella società e non soltanto nella politica, insomma, e quelli che possono essere eventuali alternative a quelli che attualmente ci sono. È un lavoro faticosissimo, indicare, diciamo, i bravi è un po' difficile, perché poi magari il giudizio che si ha positivo su una persona è determinato da alcuni criteri che possono essere smentiti un momento dopo, tenendo presente altri criteri. Quindi, diciamo, non mi avventurerei a dare dei nomi di bravi. Ti mantieni vigile per il momento. Fermo restando che ce ne saranno, non voglio dire che certo sono tutti uguali. Sentiamo per esempio cosa ci vuol dire Domenico da Cuneo. Caro Domenico. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Domenico. A proposito di Renzi, se vuole fare liberista duro e puro, cambi partito, perché quello è il suo posto. Nel DNA del centro-sinistra essere liberisti duri e puri, tutto lì. Cioè dici, è incoerente, non è collocato nel posto giusto, nel partito certo giusto, secondo te. Non è nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Dove lo vedresti tu, Renzi? Come era andato, no? Dal cavaliere, quindi vada di là. Vada di là. Sei molto drastico, quindi, Domenico. Sì, è un invito che fai. Sì. Il ridicolo di una legge anticorruzione che lascia inalterato il falso in bilancio. Cosa sì, è vero, è vero. Anche se mi sembra che oggi la ministra della giustizia Severino dicesse che il prossimo passo sarà quello, speriamo, Domenico. Speriamo in bene. Ecco, invece ti ringrazio, Domenico. Scusate, un po' di freddino che sento. Marcello, ieri proprio la Biancofiore, no, che è una delle fedelissime di Berlusconi, che lo difende a spada tratta in qualsiasi situazione, dice, annunciava che sarebbe andata a Bolzano a seguire nel suo tour Renzi, perché dice siccome siamo consapevoli che Berlusconi continua a essere l'unico vero leader carismatico popolare in Italia e lui gli assomiglia, quindi mi piace, perché secondo me ha qualcosa molto in comune con Berlusconi. Quindi forse ha ragione dal suo punto di vista Domenico, o secondo te è solo un pregiudizio questo? Ah, guarda, si può dare una lettura sia critica che positiva di questo, cioè nel senso che da una parte uno può dire che c'entra con la sinistra, non rappresenta la sinistra, dall'altra parte è anche vero che la sinistra ha vinto tutte le volte che ha avuto come premier, candidato premier, una persona che propriamente non di sinistra, non era, Prodi. Voglio dire, Prodi è l'esempio paradigmatico. Quindi voglio dire, se si vogliono prendere voti anche dall'altra parte e se si considera che l'elettorato al di là di tutto è tendenzialmente più moderato di centrodestra nel nostro paese che di sinistra, quindi se si vuole sfondare anche dall'altra parte è comprensibile che questo avvenga. Che poi la Biancofiore ritenga Renzi, come dire, l'unico quasi erede, insomma, di Berlusconi, beh, dal punto di vista comunicativo penso di sì, ma le biografie sono totalmente diverse e questo naturalmente ciascuno potrà dire per fortuna, e quindi non credo che siano paragonabili. Però se il criterio della Biancofiore e dei Berluscones, come solitamente vengono chiamati, è puramente pragmatico, cioè l'importante è vincere, e allora va bene, se Renzi è considerato un vincente, va bene pure Renzi. Io che credo ancora ai contenuti della politica, un minimo di coerenza, cioè mi rendo conto che un passaggio di questo genere sarebbe assurdo. Aggiungo però un'altra informazione, sì, che può essere curiosa, e cioè i repubblicani in America fanno il tifo per il nostro Renzi in Italia. E non solo fanno il tifo, fanno anche qualcosa di più, e quindi ho l'impressione, anche un sostegno, diciamo così, quindi ho l'impressione che questa valutazione che fa che fanno alcuni berlusconiani non sia del tutto campata per aria, cioè c'è chi ci crede. Scusa, allora Marcello, perdona, allora un D'Alema quando dice se vince Renzi sarà guerra perché sfascerebbe il PD, forse non ha tutti i torti, allora, secondo questa lettura? Può darsi, può essere anche questa una lettura. Il PD, intendiamoci, può essere sfasciato anche da altri fattori, dal fattore Di Pietro, dal fattore Vendola, insomma, cioè, voglio dire, ci sono molti agenti pronti per sfasciare il PD, quindi non è detto che debba essere Renzi. Sì. Però sicuramente Renzi potrebbe anche determinare una specie di cortocircuito. Ecco, il cortocircuito mi sembra abbastanza appropriato come termine. 800 24 00 24. Elena da Monza Brianza, c'è ancora questa provincia, non so fino a quando. Elena, sai che i piacentini adesso andranno al voto per passare con la Lombardia? Faranno un referendum. Vabbè, contenti loro, visto le situazioni che vediamo. Ma forse vale la pena aspettare un attimo. Forse. Ecco. Prego, Elena. Senti, no, il mio pensiero riguardava più o meno l'argomento di cui state recentemente avete detto, cioè la posizione di D'Alema. E io non sono iscritta al PD, quindi non posso partecipare alle primarie. Però se lo fossi, mi chiederei il significato di queste primarie, perché se l'idea è che servono perché la base indichi qual è la figura che meglio li rappresenta, e un D'Alema mi viene a dire: ah, io mi faccio indietro, però se la base sceglie Renzi, allora farò lotta forte. Scusami, ma lotta dura, allora senza perché paura. Siete venuti a chiedere, no, in un certo senso, chi è più rappresentativo? Cioè, mi sembra veramente uno scontro con una volontà popolare. Allora lui è rappresentativo di chi? Lo trovo una posizione un po' incongruente, un po' incongruente. Potrei dire che magari collaborerai, cercherai di capire perché è stato scelto Renzi invece che, non voglio dire che devi tagliarti fuori completamente dalla politica, però dire che vai a metterti in aperto conflitto con una persona che avete voluto che venisse scelta, o quantomeno avete lasciato che potesse essere scelta, quindi veramente mi chiedo se questi votano e votano Renzi, D'Alema con che criterio dice no, io faccio qualcosa di completamente diverso. Allora non facciamo le primarie. Hai ragione, Elena, secondo me l'hanno fatte queste primarie. Sai quando uno vuol fare un passo ma ne ha paura, farò bene, farò male, quindi si sono lanciati in queste primarie, ma diciamo con un timore, un terrore. Apprezzo il coraggio, ecco, posso dire questo, semmai, a parte tutte le incongruenze. Elena, ti ringrazio e dico a voi, ascoltatrici e ascoltatori, e anche al nostro Marcello Veneziani, che pare che questo mistero di Berlusconi sia stato forse svelato oggi sulle prime pagine online di Corriere, di Repubblica. Allora, la lista segreta di Berlusconi si chiamerebbe l'Italia che lavora, ma non andrebbe oltre, secondo i sondaggi, al 4-5%. Secondo me, perché chi lavora ormai è una minoranza. Può essere questa la spiegazione, Marcello? No, io credo che la spiegazione, questa è molto divertente, però credo che la spiegazione reale è che al di là, ora, mi pare troppo basso questo consenso, però sicuramente una lista Berlusconi oggi non sfonderebbe, insomma, ecco, quindi credo che non sia una grandissima idea. Ma ho anch'io notizia di questa sua tentazione, cioè quella di lasciare che il PDL faccia il suo percorso, vada verso il naufragio, e lui con i suoi fedelissimi, con una zattera, tentare l'impresa finale disperata. Però appunto si tratta di un'impresa disperata. Io quello che noto, e qui mi riaggancio anche all'ascoltatrice precedente, è che i due partiti versano comunque in condizioni negative. C'è chi attribuisce alle primarie la colpa se a sinistra avviene questa deflagrazione. C'è chi attribuisce a destra, alle mancate primarie, la colpa del perché il PDL non riesce a trovare un leader. In realtà i due esempi diversi dimostrano che non è questione di primarie, cioè è questione proprio di tenuta dei partiti, si stanno sfasciando. Allora c'è chi considera l'altro un corpo estraneo nel proprio partito, e anziché avere l'avversario fuori dal proprio partito, ce l'ha dentro. Quindi siamo in una fase strana di bipolarismo. È vero, Marcello, e a questo proposito mi viene in mente il tuo libro, poi mi dicono che tra poco abbiamo il collegamento anche con un altro pianeta, forse nella seconda parte, non ci sono più mezze stagioni, ogni tanto con questo satellitare abbiamo delle difficoltà. Marcello, questo declino, no, dei partiti, la frammentazione, il tuo libro Dio, Patria e Famiglia, Forse in questo declino che tu narri ed esprimi c'è anche molto della politica, anzi tra politica e paese sociale, e mi ha fatto venire in mente il tuo libro, cioè ho trovato questa associazione tra due editoriali di questa settimana, tutti e due sul Corriere, uno di Michele Ainis intitolato "È di semplice non restò nulla", che parla appunto di questa disgregazione dei partiti politici, dei sindacati, persino delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, di tutte le varie autorità. Dice: doveva essere un paese semplificato, invece si frammenta tutto, è tutto manca l'unità, manca il senso storico anche di questo paese. E lo stesso un po' dice in modo diverso Ernesto Galli della Loggia, il suo titolo è "Una spenta idea del nostro paese", e dice a proposito della politica: da 20 anni non è più in grado di far immaginare un paese, di dargli insomma una visione per il futuro, perché la politica ha smarrito il senso del passato, perché nei suoi attori, nei suoi istituti, dice, tanta parte si è spenta l'idea dell'Italia, della sua storia, di che cosa l'Italia sia. E poi è molto lungo e molto interessante, però c'entra un po' col tuo libro tutto questo? Guarda, il mio libro non ha una natura politica, non è... No, è più di valori, però, come dice il titolo stesso. Però è un libro, diciamo, rivolto proprio alla vita delle persone, un libro esistenziale, diciamo così, sì, che riguarda la crisi dei contemporanei. Però, ecco, all'interno di questa crisi, sicuramente la crisi dei partiti, il mancato legame col proprio paese, con la propria origine, col senso dell'Italia, l'idea dell'Italia, indubbiamente si iscrive dentro questa crisi. Tu parli di una supremazia dell'io, no? Della sì, quando appunto l'io diventa l'unico soggetto a cui fare riferimento, quando quel che conta è soltanto il nostro ego e nient'altro, e poi perdi da una parte quei principi di riferimento, comunque siano e comunque siano valutati, cioè Dio, patria e famiglia, ma dall'altra parte perdi poi nella vita concreta anche il legame col tuo paese, il legame con la comunità in cui vivi, il legame con tutto ciò che rende, come dire, un paese vivibile. È l'egoismo scatenato quello che produce questi effetti. Quindi, diciamo, la mia è una lettura esistenziale, forse filosofica, che io avevo associato una lettura, un po', ecco, su piani diversi. Mentre questa lettura corrisponde, direi, perfettamente alla situazione di disagio e di degrado in cui ci troviamo. Cioè non abbiamo più riferimenti e orientamenti, punti per poter dire chi fa bene e chi fa male. Anche se, Marcello, diciamo che da una parte mi viene in mente che per quanto riguarda la religione, forse prima in qualche modo era un po' un collante, ma c'era anche tanta più ipocrisia forse di adesso. Per quanto riguarda la famiglia, prima era patriarcale, molto maschilista, e certe cose sono migliorate, cioè ci sono cose buone e cose meno buone anche nel presente, no? Si deve anche valutare questo, però quello che io dico, facendo un po' i conti, è che noi abbiamo buttato via non soltanto gli aspetti degradanti e inaccettabili di quei principi, ma abbiamo buttato via proprio il significato di quei principi. Noi abbiamo bisogno di un legame con il nostro destino, un legame con la nostra origine, un legame con la nostra comunità. Non possiamo bruciare questi legami nel nome dell'uso distorto che se ne è fatto nella storia. E quindi questo è un po' il senso di questo libro, che credo appunto si rifletta anche nella condizione contemporanea. C'è Marina da Roma, dicevamo. Marina. Marina da Roma, dicevamo. Marina. Com'è che mi risento tal quale dentro il tuo telefono, Marina? Eccomi. Ah, ecco. Sono qua. Sì. Ecco. Che stai facendo? Un attimo, perché no, sto guidando, sto ritornando dal lavoro e quindi stavo guidando. Che lavoro fai di sabato, se posso farmi i fatti tuoi? Se allora, posso. Io sono un'insegnante ed è per questa ragione che telefono, perché purtroppo di una notizia se ne è assolutamente parlato. Dell'aumento delle ore di lavoro degli insegnanti? Bravissima, sì, sì, proprio questo. Allora, io volevo innanzitutto... cercare di istruire quella che è l'opinione pubblica, perché è chiaro che la decisione ancora non passata del ministro Profumo di aumentare le nostre ore settimanali da 18 a 24 sicuramente sfonda una porta che è già aperta, che è quella che tengono così spalancata l'opinione pubblica, perché c'è il solito ritornello per il quale insegnanti lavorano poco, certo, tre mesi di vacanze e cose varie. Allora io vorrei invece che mi piacerebbe che anche la carta stampata facesse un'opera di informazione. Innanzitutto non è vero che abbiamo tre mesi di vacanze estive, perché io sono un insegnante di scuola superiore, sì, e la mia il mio anno scolastico termina esattamente il 20 di luglio, o il 19 o il 20, dipende il 20 di quando capita, perché tra gli esami di Stato ai quali noi siamo obbligati a partecipare e i corsi di recupero, nonché gli esami per il recupero dei debiti, noi terminiamo scuola il 20 di luglio e riprendiamo il 1 di settembre, quindi sono i 30 più 6 giorni di ferie. È vero, sì, ci si potrebbe imputare il fatto che abbiamo i cosiddetti 15 giorni di Natale, la settimana di Pasqua. Che non è male. Per questo, che non è male, ma noi per questo stiamo facendo una battaglia, proprio perché, proprio in virtù di questo che si pensa che l'insegnante lavori poco. Però io vorrei far pensare a tutto quanto un lavoro che non è monetizzato e che tra l'altro è un lavoro nascosto perché noi lo facciamo a casa, che è di preparazione delle lezioni, preparazione delle verifiche, correzione dei compiti. Questo è vero. Allora, ci sta bene aumentare le ore settimanali, no? Da portarle da 18 a 24, però non si possono barattare con 15 giorni di ferie, perché questo da parte di un ministro della pubblica istruzione svilisce ancora di più il lavoro di noi insegnanti. Anche se, Marina, ti devo dire che fra l'altro non è solo, per carità, per chi lo vive sulla propria pelle, un problema di lavorare ancora di più, ma è che poi tanti precari che potevano condividere queste ore vacanti di lavoro poi vengono messi fuori dalla scuola, no? Mi sembra, Marina. No, anche perché tra l'altro ci stiamo interrogando sul come mai venga bandito poi un concorso adesso a novembre, proprio un concorso a cattedre, a cui si aprono le porte ai giovani precari, addirittura ai giovani laureati, promettendo loro chissà che cosa, perché è chiaro che per riuscire ad arrivare a 24 ore noi andiamo a grattare sulle altre ore senza precedenti e quindi questo significa che a catena, perché ci saranno perdenti posto, i perdenti posto dovranno andare all'interno di altre scuole nelle quali è avvenuto né più e né meno quello che capita nella scuola di provenienza e quindi si dovranno andare ad intaccare le ore che vengono affidate agli incarichi annuali e se non bastano quelle alle supplenze temporanee. Marina, sei stata chiarissima, perdonami, siccome mi dicono che tra poco hanno collegato col satellitare con Marte, se non sbaglio, poi rischiamo di perdere. Intanto vi ricordo che c'è sempre anche la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni per fare i vostri commenti, anche sulla rottamazione ci sono stati molti interventi, tutti piuttosto diciamo pessimisti, disillusi, disaffezionati dalla politica, dicendo che sarebbe una rottamazione generale. Riflessioni da Marte. Ha detto subito una cosa quassù da Marte, puntando dritto dritto il telescopio sul globo terracqueo questa settimana si sono capite chiaramente due cose. Cominciamo dalla prima. La prima è che il salvatore della patria italica non è Monti. Ebbene no, non è il professor Mario, l'eroe, pur malvisto da alcuni, che ha evitato in extremis il naufragio collettivo. No, il vero salvatore della patria, l'evitatore di naufragi, il monumento alla abnegazione e al coraggio, l'impareggiabile esempio italico da esportazione, l'impavido eroe che tutti vorrebbero avere al proprio fianco, specie nei momenti d'emergenza, è lui, l'ex comandante Schettino. Quello che scivolò come uno schettino a sua insaputa in una delle prime scialuppe disponibili dopo aver cozzato l'isola del Giglio per un galante inchino. E lui stesso l'ha riconosciuto d'essere l'eroe patrio. In questi giorni, durante l'incidente probatorio seguito all'incidente marittimo, ha detto ai superstiti, quelli cioè che non sono periti insieme agli altri 32, «Io», ha detto loro solennemente Schettino Schettino, «io vi ho salvato la vita». Infatti, da ulteriori intercettazioni, dopo il cozzo rovinoso della Concordia sul Giglio, si sente il fulgido ex comandante che dice, mentre l'acqua entra copiosa nella nave prima di abbandonarla, «E ora ci pensi Dio». Capite? Il prode ex comandante si è preso su di sé il carico di affidare a Dio il salvataggio della nave. E Dio di lassù, grazie alla sua generosa intermediazione, deve averlo ascoltato. Dal momento che anche il procuratore di Grosseto ha detto: «È stata la mano del buon Dio a far avvicinare la costa Concordia al Giglio dopo l'urto contro gli scogli, evitando che si capovolgesse del tutto, altro che una manovra fatta dal comandante Schettino». Ma anche dopo questo riconoscimento non si sa se il procuratore di Grosseto abbia compreso sino in fondo l'eroismo dell'ex comandante, dato che ieri ha detto: «Dall'atteggiamento tenuto in questi 5 giorni in aula durante l'incidente probatorio, a me sembra che Francesco Schettino non si renda conto di quello che ha combinato col naufragio della costa Concordia». Sì, è il destino degli eroi incompresi. Ma come vi dicevo, una seconda cosa è apparsa chiara da quassù da Marte questa settimana. Non è vero che buona parte della classe politica peninsulare, tra privilegi intollerabili, scandali senza ritegno, rastrellamenti a gogo di soldi pubblici, ruberie variegate, rapporti indranghetosi, sia, come dice qualcuno, la peggiore, la più ladrona. Niente affatto. Cosa sarà del resto qualche spicciolo di denaro pubblico, dovendo del resto compensare i politici italiani dei vitalizi insufficienti a una decorosa sopravvivenza? Cosa sarà qualche spicciolo pubblico messo in tasca rispetto alla vergogna scoperta in Svizzera? Nel paese del cioccolato e degli orologi precisi come orologi svizzeri, i parlamentari rubano direttamente in Parlamento. Nel Parlamento del Canton Ticino, e non monetine o banconote da strapazzo che si sa il denaro va e viene, ma ombrelli. I parlamentari svizzeri rubano ombrelli, una vergogna. Ebbene sì, dopo la denuncia di un esponente di C, un collega parlamentare è stato incastrato da una videoregistrazione e ha confessato. È vero, ha detto il malfattore svizzero, l'ho preso io l'ombrello perché qualcuno ha rubato il mio. Insomma, le solite indecenti scuse che accampa chi è preso con le mani nel sacco. E di colpo si scopre che nel Parlamento svizzero è una pratica diffusa, quella di appropriarsi indebitamente di ombrelli. Quando si dice piove governo, anzi Parlamento ladro. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Ritorniamo con i piedi per terra, ritorniamo al numero verde tra pochissimo con Livio da Roma, Enzo da Prato. Ma Marcello, tu volevi dire qualcosa su questa cosa degli insegnanti? Ma guarda, gli insegnanti dovrebbero dare di più alla scuola e prendere di più dalla scuola. Cioè sappiamo che c'è una contabilità negativa sia da una parte che dall'altra. Io l'unica cosa che mi chiedo è come mai le 18 ore fino a qualche anno fa non suscitavano nessuna rabbia e nessuna indignazione sociale, adesso questo accade. Come mai? Da una parte si può pensare al clima più cattivo e più inasprito, però dall'altra parte non vi sorge anche il dubbio che ci sia stato anche un degrado generale della classe insegnante? Dico almeno un dubbio, no? Dobbiamo averlo. Cioè come mai fino a qualche anno fa i professori, nonostante le 18 ore, parlo di qualche decennio fa, insomma, nessuno si metteva, come dire, nelle condizioni di ridiscutere il ruolo degli insegnanti. Adesso invece lo si fa. E dipende soltanto dall'euro, dal governo Monti o c'è anche qualcos'altro? Lasciamoci con questa domanda, anzi prima della questa viabilità che abbiamo tra pochi secondi. Enzo da Prato? Sì, pronto. Enzo, dovresti spegnere la radio subito, immediatamente. Spenta? Pronto. Bene, eccoci qua. Pronto? Pronto Enzo, ti sento benissimo. Allora, dunque, io ho sentito una conversazione finalmente fra tante, una conversazione intelligente fra una donna che non conosco, poi ho saputo che si chiama Roberta Giordano, me l'ha detto la centralinista, è un uomo che conosco benissimo perché quello che scrive è come è la differenza che mangiare una minestra scondita e una invece con un bel sugo. Un bel sugo. Enzo, quindi, spero che adesso che abbiamo fatto questa conoscenza tu sarai sempre il sabato a quest'ora in ascolto. Sì, dunque, l'intelligenza oggi è una cosa che non è molto frequente da trovare, mi dispiace. Molta gente non so con che cervello ragiona. Allora, io vorrei dire questo pensiero. Ho sentito quello che ha detto Marcello Veneziani a proposito della candidatura del giovanotto, chiamiamolo così, tra virgolette, questo non è dispregiativo, naturalmente. Renzi, sì. Certo, sì. Lasciamo fare l'altra candidatura, come lui l'ha chiamata, della performance ittica, diciamo così. Questa è una cosa che insomma lascia il tempo che trova. Ma prendiamo questa candidatura qua, perché è una città vicino a quella dove ho il mio studio e dove lavoro, quindi allora prendiamo questa candidatura. Sì. Allora, dunque, non è stata detta una cosa che è importante. Dunque, secondo quello che io penso, che dico, perché sono un po' un uomo dei media, faccio trasmissioni in televisione di cardiologia da molti anni, da più di 20 anni, quindi domande, sì, conosco un po' il polso della gente. Le persone, veniamo al punto. Renzi è destinato a perdere. È destinato a perdere, è destinato anche a perdersi, perché non ha capito, nessuno gli ha fatto capire, nessuno spin doctor c'è stato che l'abbia avvertito, che lui sta combattendo con lotte sotterranee, con diciamo in punta di fioretto, ma anche il fioretto può uccidere. Lui sta combattendo contro un partito monolitico di stampo postcomunista, certamente, Quindi lui non ha capito una cosa, voleva vincere, vuole vincere, sì. Poi se lui sarà capace di governare uno Stato, questo non lo sappiamo, no? Però tutti hanno il diritto di provare, lui crede di essere in grado, benissimo, può provare a governare lo Stato, ma prima deve vincere le elezioni. Scusi un attimo, chiedo silenzio per favore. Enzo, scusami. No, lasciamolo un attimo, Paolo. Enzo, allora, senti, dunque, senti punto, il tempo corre, Enzo. Tutto. Perché sì. Sta sbagliando sì. Tutto? Perché lui dice delle cose giuste, sì. Ma se lui vuole vincere, deve uscire di lì. Deve fondare un partito di moderati. Ecco, nuovo, questo è il succo di Enzo, di questo, è chiarissimo. Al quale lui appartiene. Fonda un partito di moderati, sì. Che in Italia lo cercano come il pane, come e il pane. Non lo trovano, ma perché sì. non c'è più. C'è un po' di focaccia. Non sa dove rivolgersi. Fonda un partito di moderati, sì. Raccoglie voti, sì. A valanghe. Beh. Voti Enzo, a valanghe. Allora, questo appello Enzo lo lancia direttamente a Matteo Renzi. Direi che ci accompagniamo a un appuntamento immancabile, diciamo abbastanza iconoclastico, che è quello con Don Severino. Caro Don Severino da Potenza. Ciao Roberta. Ciao Don Severino. Bene. Grazie. La tua notizia? Allora, la mia notizia è una notizia che non viene messa troppo in evidenza e che invece a me dà molta soddisfazione e spero che la sviluppino, ed è questa: la Compagnia delle Opere. Io chiedo, diciamo, agli ascoltatori o chi ascolta di insistere moltissimo affinché si indaghi parecchio su questa benedetta Compagnia delle Opere, per il semplice motivo perché se si incomincia lì probabilmente si capisce anche il silenzio, se avete notato, delle gerarchie alte, che in questo periodo fanno sentire poco la loro voce, anche perché non sanno ancora a chi chiedere, no? Alcuni piaceri, alcuni favori nelle prossime elezioni. Per cui se qualcuno insiste affinché si faccia luce sulla Compagnia delle Opere, quindi comunione e liberazione, avremo parecchio da divertirci, e credo che anche a livello di elezioni o proposte che possono fare probabilmente avranno un po' di meno da prendere come voti. E questo è Don Severino, grazie Don Severino. E poi invece chiediamo a Valeria Della Valle, della Sapienza di Roma, linguista eccelsa. Cara Valeria, allora dicevamo al posto di rottamazione questa settimana rinnovamento sembra il termine, che ci dici? Certo, rinnovamento più ancora di rottamazione, aggiungo solo che rottamazione nel nuovo significato è già registrata, già registrata, nei vocabolari già più recenti. Perfetto. Molto attenti, ma torniamo a rinnovamento, che anche da quello che sentivo forse ci piace di più. Parola antica che risale, era già usata nel 300, veniva dal latino, ma vorrei ricordare che questa parola era presente in un celebre titolo che forse qualcuno tende a dimenticare, e cioè il libro di Vincenzo Gioberti, che nel 1851 scrisse del rinnovamento civile d'Italia. Ecco, di un rinnovamento si sentiva bisogno allora e si usava questa parola. Sono passati più di 161 anni e la parola continua a essere ancora di grande, grandissima attualità. Nell'invocare che cosa? Ma lo dicevate prima, un cambiamento di modi, di comportamenti. Ecco, io nel mio piccolo e per quello che mi riguarda aggiungerei anche un rinnovamento della lingua e dello stile. Grazie cara Valeria Della Valle, e abbiamo fatto anche questa con Valeria. Livio da Roma, tu riesci in una frase a dire la tua opinione? Perdonami, poi ci sentiamo la settimana prossima. Livio? Tutti con sta radio accesa. Livio? Pronto? Livio, che stai facendo? No, tu giri la pasta e fagioli mentre... Sì. Un attimo che spengo la radio. Ma un attimo, siamo di corsa, Livio. Dica. In una frase, dimmi quello cosa vuoi dire, in una frase, poi ci risentiamo settimana prossima. La tua notizia è in una frase. No, niente, quello che volevo dire io, sì. È semplicissimo. Quando i politici fanno delle proposte, presentano, diciamo... Sì. Che le posso dire? Che mi dici? Una miriade di cose che vorrebbero fare quando se vengono eletti, quello lì, quei patti lì dovrebbero farli davanti a un notaio, sì. Scritti, e se non vengono fatti solo quelli, non come ha fatto Berlusconi che ha distrutto la giustizia in Italia, dovrebbero fare soltanto quello che scrivono davanti a un notaio. Quindi un contratto, Livio, mi pare una proposta fattibile. Grazie caro Livio. Invece a Marcello Veneziani, prima di salutarci, ricordando Dio parla Patria e Famiglia, il suo ultimo libro, e ricordandovi che potete poi riascoltare la trasmissione su radio24.it e sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Quello che ti chiedo, Marcello, visto che c'è tanta antipolitica e visto che i politici, alcuni sono inquisiti, indagati, processati, alcuni dovrebbero andarsene per questo, alcuni forse da rottamare dicono che facciamo, io ho letto che la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, dice che il lavoro, il futuro del lavoro è nell'agricoltura, sono pronti 200.000 posti di lavoro, quindi potremmo suggerire a questi politici, nel caso non sapessero, di braccia rubate all'agricoltura, di ritornare all'agricoltura forse, Marcello? Beh sì, questa si può chiamare riconversione, ecco, perché è rottamazione, mi sembra una buona idea. Per la politica invece lascerei solo due criteri. Sì, questi 20 secondi. Cioè, sì. Ecco, non tanto i programmi futuri, ma quello che hanno fatto in passato. E la motivazione, perché fanno politica? Quale molla li spinge a fare politica? Cioè questi sono due filtri importanti. Ottimo, grazie a Marcello Veneziani, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.